sarai opportuno. Ora, vedere per parte quanto noi abbiamo accennato nella prima meditazione. In fondo, nella prima meditazione vi è tutta la dottrina. In fondo, nella prima meditazione vi è tutta la dottrina cristiana sulla pazienza. Ma appunto per questo è stata data in tal modo che forse oggi, ora si rende necessario vedere in un modo più dettagliato i passaggi. Effettivamente voi forse vi siete anche domandati se in realtà si meditava sulla pazienza. Che cos'è questa pazienza di cui parla oggi il predicatore? Quando si parla di pazienza, comunemente si intende non tanto una passività di fronte al Signore, ma precisamente la necessità per noi di subire tribolazioni e prove in questa vita. Ci rendiamo forse conto, più o meno chiaramente, che queste prove e queste tribolazioni sono permesse da Dio, ma il fatto che in queste prove, in queste tribolazioni ci fosse una volontà di beneplacito o permissiva divina, per noi era secondario nei confronti del peso e della pena che da certi avvenimenti noi subivamo. Ma noi dobbiamo renderci conto effettivamente che vivere per noi importa sempre soffrire. Dopo il peccato, l'uomo non vive in pace né con sé né con la creazione e neppure con Dio. E per questo è inevitabile oggi alla condizione umana la sofferenza. Conseguenza del primo peccato, vivere per noi vorrà dire sempre soffrire, cioè sperimentare precisamente la condizione in cui ci ha fatto cadere il primo peccato. Condizione di violenza nelle nostre potenze interiori che non sono pacificate, perché, come dice Paolo, il corpo, nostra carne, ha una legge diversa dalla legge dello spirito, e carne e spirito in noi combattono insieme. Non vi è pace in noi, non vi è pace fra noi e gli altri, perché non siamo, dopo il peccato, più trasparenti l'uno all'altro. Rimangono delle opacità dolorose che non ci permettono di chiaramente comprenderci per poterci pienamente amare. L'amore stesso è che noi portiamo agli altri può essere origine di sofferenza, e lo è, precisamente perché se l'amore esige il dono di sé ed esige che anche noi riceviamo il dono dell'altro, nel nostro amore noi troviamo una impotenza sempre più grave a donarci e un'impotenza a ricevere. È proprio della condizione umana, qua giù, il soffrire. Non c'è nulla da fare. Non è Dio che ha messo il dolore nella nostra vita, è il peccato che ha determinato la pena, che ha determinato questa pena. E vivere per noi ora è precisamente sperimentare la condizione di umiliazione e di pena in cui il peccato ci ha fatto cadere. Tanto più vivremo, tanto più soffriremo. più nel, non nel senso di tempo, nel senso di intensità. Quanto più cioè le nostre, la nostra umanità sarà ricca, sarà profonda, tanto più avremo da soffrire. Quanto più saremo uomini dopo il peccato, tanto più saremo soggetti alla sofferenza. È un'occasione qualsiasi, quella della malattia o quella dell'incomprensione dell'uno o quella di questo avvenimento che ora ci succede, sono occasioni che ci rendono chiaro, esplicito, che ci rendono consapevoli di quella che è la condizione però normale della nostra esistenza umana dopo il peccato. Non è quella persona, non è quell'avvenimento la causa della nostra pena, è semplicemente l'occasione. Prendiamocene conto. Non abbiamo nessun motivo da inveire contro la tale persona o contro il tale avvenimento, perché questi avvenimenti e queste persone non potrebbero essere per noi ragione alcuna di sofferenza se noi non vi fosse una condizione di peccato che ci mette in contrasto e con noi stessi e con gli altri e con Dio. Il santo, per dire in altre parole, non soffre in qualunque condizione si trovi, in qualunque rapporto gli altri, qualunque rapporto gli altri stabiliscano con lui. Voi mi dite, ma Gesù era santo eppure ha sofferto. Sì, ma perché Gesù, badate, pur non avendo peccato, ha voluto assumere una carne di peccato, come dice San Paolo nella lettera ai Romani. Ha voluto cioè vivere la condizione propria dell'uomo peccatore. Non è peccatore, ma ha voluto subire la condizione dell'uomo peccatore, che è dell'uomo senza difese, che è dell'uomo che soffre interiormente ed esternamente, a proposito di tutti, sofferenza e dolore, perché soffre a proposito di tutto e di tutti, contrasto e violenza. Il peccato, cioè, per dire in altre parole, ha spezzato l'unità, la pace, la pace delle nostre potenze interiori, la pace e l'unità dell'uomo con l'altro uomo, la pace e l'unità dell'uomo nella creazione, la pace e l'unione dell'uomo con Dio. Spezzata questa pace, l'uomo si trova ora in un contrasto violento, interiormente, in se stesso, si diceva, la carne contro lo spirito contro la carne, le potenze stesse spirituali in lotta fra loro, l'uomo contro l'uomo, l'uomo contro la creazione contro l'uomo, l'uomo contro Dio. Ecco quella che è la condizione umana. Quanto più siamo uomini, tanto più sperimentiamo il dolore. Voi credete che il soffrire dipenda, non so, da avere quella malattia piuttosto che non aver nulla, o da avere sposato quel tale uomo invece di un altro, o da avere quei figlioli piuttosto di altri? No. Non è affatto vero. Essenzialmente non dipende da questo, dipende dalla tua condizione di uomo peccatore, che tu soffra di queste condizioni, che tu soffra di queste come soffresti di altre. Uno che sia più insensibile, che sia meno uomo, cioè che abbia meno sensibilità umana, che abbia meno capacità e doti umane, soffrirebbe meno di te se si trovasse nelle stesse tue condizioni, o potrebbe soffrire più di te se fosse più un uomo più perfetto di te nelle condizioni nelle quali ti trovi. Quello che per te è sofferenza per un altro potrebbe non esserlo, o quello che per te non è sofferenza per altri potrebbe essere sofferenza grandissima. Non dipende dalle cose esteriori la sofferenza, non dipende dagli altri la sofferenza, dipende da te, dalla rovina che in te ha compiuto il peccato, in questo disordine in cui ha posto la tua anima contro il tuo spirito contro la tua carne, e poi ancora te contro gli altri contro di te, e la creazione contro di te, e tre contro la legge della creazione. Tu non sei in pace, tu non sei in unità. In questo contrasto tu soffri una pena. Soffrire è proprio dell'uomo. Oggi. E si soffrirà tanto più quanto più precisamente saremo uomini perfetti nella nostra natura. E perciò perfetti vuol dire aventi una esigenza di unità e di pace maggiore di quanto non vi sia in altre creature. Quanto più l'uomo è perfetto, tanto più prova nell'intimo suo questa esigenza di pace, e trova invece nell'intimo suo questa guerra scatenata, questa disunione, questa disgregazione interiore. Chi ha sofferto di più? Vedete, consideriamo le cose proprio chiaramente. Nostro Signore ha sofferto tanto. Passione di Gesù, quanto si merita sulla passione di Gesù. Però diceva quella tale suorina, merita sempre, ma in fondo è stato un giorno di sofferenza, e io qui sono 3 mesi che non ce la faccio più. Se noi si considera la cosa umanamente, non considerando chi soffre, ma considerando le sofferenze oggettivamente parlando, quanti sono che si dovrebbe dire hanno sofferto più del Signore? Anche gli stessi crocifissi, perché in fondo praticamente non è stato nemmeno tanto tempo in agonia quanto pensavano che ci dovesse stare coloro stessi che avevano visto tanti altri in agonia sulla croce. Si meravigliano, erano andati per spezzare le sue gambe e trafiggono il suo cuore, perché egli era già morto. Per il tempo sembra dunque che gli stessi che sono stati crocifissi ai lati di lui abbiano sofferto maggiormente di lui. Eppure nessuno ha sofferto più di Gesù. Non c'è paragone alcuno fra nessun uomo e Gesù nella sua sofferenza. Non c'è paragone alcuno, tanto che si potrebbe dire che tutto il dolore forse della creazione è nulla in confronto al dolore, alla sofferenza del Cristo. Ma da che cosa dipende allora questa sofferenza? Dal fatto che egli come uomo era il più perfetto degli esseri. Vi era dunque nella sua natura una tale esigenza di pace, una tale esigenza di unità, che il minimo contrasto, la minima guerra, la minima sofferenza in lui aveva ripercussioni estremamente dolorose. Risvegliava degli echi di una intensità di dolore che noi non possiamo nemmeno immaginare. E questo proprio. Noi ce la pigliamo con le cose, ce la prendiamo con gli avvenimenti, prendiamocela con noi stessi. C'è nulla da fare. L'uomo, Gesù, perché assume la nostra condizione di peccato? È così. Ma quando Gesù risorge da morte, ma quando tutti i santi entrano nel cielo, cioè si svestono, si spogliano di questa condizione propria dell'uomo peccatore, la condizione dell'uomo presente, allora i santi vivono nella beatitudine, pur rimanendo le stesse condizioni di Cristo, non loro, ma il mondo con loro. Vediamo un pochino. Lei non si trova d'accordo con suo marito, non c'ha nemmeno marito, va bene, per questo è più chiaro parlare di queste cose, no? Lei non si trova d'accordo con suo marito, litigi, insomma, dissapori, contrasti più o meno velati, più o meno cercate di rattoppare. E certo che tutto questo è un grande motivo di sofferenza per lei, no? Perché lo ama e perché lui stesso l'ama. E proprio in forza di questo amore ogni minimo contrasto diviene veramente doloroso, sempre più doloroso. Ma quando lei va in paradiso, anche se il marito rimane lo stesso, lei non soffre più del suo marito, guardi un po'. Eppure è vero questo, no? Lei muore e va in paradiso. Il marito rimane quello che era. Lei lo ama ancora. Lui l'ama ancora. Quest'amore non è più motivo però di sofferenza per lei. Perché? Perché si è spogliato della sua condizione di uomo che vive nel peccato. e possiede ora una natura redenta, salvata, la redenzione del Cristo. Che cosa vuol dire redenzione? L'uomo è ritornato nella pace, non vi è più contrasto, ella può donare, pienamente donarsi e ricevere senza che vi sia opacità fra queste due creature che si amano. Lui può avere sempre tutti i suoi difetti, ma ella lo comprende fino in fondo e lo può ricevere nella misura che egli si dona, e può donarsi nella misura che egli anche non l'ama. Nella misura, d'altra parte, che egli non l'ama, ella neppure prova più nessun contrasto, perché tanto può vivere la sua unità con una creatura quanto può essere il suo amore, e là è l'amore dell'altro. Dove non giunge questo amore, non trova la sua anima sofferenza e motivo di pena, perché è subentrato all'amore relativo delle creature l'amore infinito di Dio, che la colma. Le condizioni sono quelle di prima, perché Dio l'amava anche prima, però lei sa, mica che comincia ad amarla ora che è in paradiso. Dio l'amava anche prima e lei credeva di amarlo e lo amava anche prima. Amava il suo marito, amava, ma prima l'amore per il Dio era per lei motivo di sofferenza, pensava di amarlo, eccetera, eccetera. L'amore per gli altri motivo di sofferenza ugualmente. I contrasti, ogni rapporto diveniva sempre un motivo di sofferenza, più o meno vivo, più o meno presente. Ora tutto è cambiato. Non sono cambiate le cose, è cambiata lei. E cambiando lei cambia tutto. Noi chiediamo al Signore che ci faccia andare via il dolore di denti. Se non c'è il dolore di denti, ci sarà qualche altra cosa. Il nostro corpo passibile è soggetto alla sofferenza. Che ci vuoi fare? Nemmeno Dio potrebbe, fin tanto che tu non sarai perfettamente redento, potrebbe liberarti da ogni sofferenza che ti derivi dal fatto che la sua anima è unita a un corpo mortale, a un corpo che ora, dopo il peccato, è stato privato di quel dono preternaturale onde l'uomo non era soggetto alla malattia e alla morte. Ma ora tu sei soggetto, tu sei malata, va bene, chiedi che il Signore ti guarisca, ma sarà una toppina, poi dovrai morire, perché vedete, anche Lazzaro, Gesù l'ha risuscitato. Ma poi, oggi, anche se vai a cercare per tutto Israele, non lo trovi più. È morto, non si sa più nemmeno dove sia andato a finire. Dicono sia morto a Marsiglia, ma vattene a pesca. Così. Mica il Signore ci può dispensare dal morire. E capite bene, sa, la morte, se è morte, è sempre pena, perché importa la violenza di una separazione fra anima e corpo, che sono state create invece per rimanere uniti. Io posso superare questa pena nel mio amore per il Dio, posso desiderare anche la morte, non la morte come morte, la morte come condizione della visione beatifica, cupio dei soldi ed esse fecum. Desidero di morire per essere con Cristo, dice San Paolo. Si può anche desiderare la morte, ma non la morte come morte. La morte come morte sarà sempre un male per noi, perché in quanto uomini noi non potremmo volere questa separazione violenta di un'anima che è stata creata per un corpo, di un corpo che è stato creato per essere lo strumento di un'anima. Fintanto che questi elementi saranno separati, noi non saremo perfetti e noi non possiamo desiderare la morte per sé. Eppure tuttavia il Signore non può dispensartene, voglia dietro, potrebbe anche guarirti ora, toglierti questo diletto, ti verrà il dolore di testa. Non c'avrà il dolore di testa, c'avrà il dolore di pancia, insomma qualche cosa, all'altro mondo sali non ci si va, non è vero, di qualche cosa si deve morire, c'è da farci poco. È inutile che tu chieda al nostro Signore ti liberi da tutto, non potrebbe nemmeno lui. L'unico modo per liberarti è quello di partecipare totalmente alla morte di Cristo per poi partecipare alla sua risurrezione gloriosa. È nella risurrezione, nella partecipazione alla risurrezione che noi siamo pienamente salvati. Ma vedete, la risurrezione suppone morire. Come fa a risorgere se non muori prima? Ti sembra? Soffrire. Dio nemmeno potrebbe dispensarci. È proprio della condizione dell'uomo peccatore. Potrebbe dispensarcene a una condizione. Avrebbe potuto anzi dispensarcene a una condizione, che Dio nonostante il nostro peccato, avesse voluto distruggerlo senza che noi ne subissimo la pena. Ma era giusto? È sembrato più conveniente alla sapienza divina che l'uomo dovesse subire il castigo del proprio peccato e attraverso questo castigo purificarsi, redimersi, ritornare a una migliore giustizia, possedere una più intima e profonda pace e una più grande unione con Lui nel mistero dell'incarnazione divina. E allora dobbiamo concludere che la sofferenza è inerente alla nostra vita. È un'illusione pretendere che Dio ce ne possa liberare allontanando da noi tutte le cause del dolore. Perché le cose esteriori non sono causa del dolore, sono occasione. Sono occasione. Se io avessi un corpo glorioso, potrei essere turbato dalla malattia, potrei avere il dolore di denti o il dolore di testa, se avessi un corpo glorioso, no? E dunque, proprio di questo mio corpo, fin tanto che con un corpo così, per forza sarò soggetto al dolore. Ora mi viene il dolore di denti perché ho preso un po' di fresco, va bene. Il fresco è un'occasione al dolore di denti. Se io ci avessi dei denti che non soffrono per queste occasioni, beh, potrei subire il fresco che voglio e non avrei mai il dolore di denti. Vi prometto e vi annuncio che non avrete più dolore di denti quando risorgerete da morte, anche se andrete al vento. Queste cose esteriori non avranno più alcuna presa su voi. Allora il dolore può avere occasione nelle cose esteriori, ma ha una causa in noi. Avendo una causa in noi, noi non possiamo allontanare tutte le occasioni onde poi per noi per sottrarci totalmente al dolore. Sottrarci al dolore per noi sarebbe possibile solo se la causa di questo dolore non fosse in noi, ma fosse nelle cose. Ma non è nelle cose, non è negli avvenimenti esteriori. Noi diamo la colpa a quelle persone, noi diamo colpa a quegli avvenimenti, noi diamo la colpa a quella situazione. Ma se non c'era quella situazione ci sarebbe stato un altro, se non c'era quella persona ce ne sarebbe stata un'altra e tu avresti avuto ugualmente motivo di sofferenza. Uno sensibile, uno più che è ombroso, se non trova nel marito una persona che è occasione per lei di sofferenza, di dolore, di pena, lo troverebbe nell'amica, lo troverebbe nel figlio, lo troverebbe in comunque. Prima meditazione. Che sia veramente una giornata di preghiera. Quella che ci ha voluto concedere oggi il Signore. Procuriamo di mantenerci alla sua divina presenza. Viviamo in una fede pura, umile, dinanzi al suo volto. Che ogni pensiero estraneo sia allontanato da noi, ogni preoccupazione. Che l'anima nostra tutta si apra, e si apra soltanto a Lui che ci vuole parlare, a Lui che vuol comunicare a noi la sua volontà. Ci rendiamo noi conto di questo mistero immenso di amore, di un Dio che ci parla, di un Dio che vuole comunicarsi alla nostra anima, vuole entrare in questa comunione di amore con noi. Come l'anima potrà distrarsi da Lui? Come l'anima potrebbe pensare ad altro, occuparsi di altro, mentre Dio, in un ineffabile atto di amore, tutto si volge a noi, perdonarti, a noi. Eccolo, prima di tutto, Vi chiedo in nome del Signore che voi facciate silenzio nell'intimo della vostra anima, che tutta la vostra vita interiore sia un'attenzione pura alla sua parola, sia in uno sguardo fermo, anche se umile, su Dio che è presente. Vedete, se noi sapessimo vivere questo, non avremmo bisogno di altro. La vita cristiana, quanto più è perfetta, tanto più diviene semplice. Al limite estremo, non è che visione. Che cosa fanno i santi? Guardano Dio, non c'hanno mica da fare altro. Si dice che cantano, ma che? Non ci pensa nemmeno. Quando un'anima è presa veramente dall'amore, rimane estatica, senza la possibilità né di parlare né di, e tantomeno di cantare. Sospese tutte le sue potenze nella pura visione. E il santo vive così, per tutta quanta l'eternità. Oh, se anche la nostra anima vivesse, almeno il giorno di oggi, almeno queste poche ore di solitudine e di preghiera che il Signore ci ha voluto concedere, se l'anima nostra vivesse almeno oggi questa attenzione pura a Lui, vivesse almeno oggi questa visione di Dio. Eppure noi lo sappiamo, Dio realmente è presente, e è presente come l'amore che si dona. Però noi non siamo così santi da poter resistere in un atto solo di visione, in un atto solo di attenzione pura. Non è vero? Se non cerchiamo di pensare noi a qualche cosa, ci pensa la fantasia, a proporci immediatamente immagini, fantasmi, che ci portano chissà dove, non soltanto lontano da qui, dalla Chiesa, ma nemmeno noi sappiamo dove potrebbero portarci queste immagini, questi fantasmi, queste preoccupazioni che assedierebbero insomma la nostra anima per poter penetrare in noi e devastare la nostra vita interiore. E allora, proprio considerando la povertà della nostra vita spirituale, conviene per noi meditare, fermare, fissare la nostra attenzione, il nostro pensiero, i nostri affetti su un argomento preciso. Non vi sembra? Diamo dunque un argomento al ritiro di oggi. Questo dimostra che siamo dei poveri cristiani, ma che ci volete fare? Siamo quello che siamo. Non bisogna cercare di portarci a Dio senza farci illusioni, soverchie illusioni, sulle nostre possibilità contemplative. Non vi sembra? Beh, insomma, qualcuna di voi potrà essere anche un'estatica. Beh, allora in questo caso chiuda gli orecchi, si metta del cotone negli orecchi e non mi ascolti e continui a pensare che egli è qui. Questo basta per quest'anima che viva in tale unione con Dio. Per noi poveri cristianucci ci contentiamo di meditare su un argomento preciso, e l'argomento che vogliamo trattare oggi è la pazienza. Pazienza vobis necessaria est, o voluntate medei pacientes reportetis promissione. È l'apostolo che ci dice: vi è necessaria la pazienza perché compiendo così la volontà di Dio possiate ottenere quello che Dio vi ha promesso. Intanto notate la frase, è di una grande sapienza, non per nulla è ispirata, la sapienza di Dio che ha dettato queste parole. Per capirne tutta la portata basta un poco rigirare la frase. Se noi si rigira la frase, noi si ha questo insegnamento da parte di Dio, che far la volontà di Dio per noi vuol dire esercitare la pazienza. Noi si cerca tante volte come fare la volontà di Dio. Ecco, il Signore ci dice nell'essere pazienti. E guardate come è meraviglioso il Signore. Guardate, il nostro Signore è più bravo di noi. Sì, è veramente più bravo. Ce la farà di nuovo. Guardate un po'. Che cosa vuol dire per noi fare la volontà di Dio? Vuol dire in qualche modo vivere lo stesso abbandono della Vergine a un'azione divina. Cioè, per dire in altre parole, fare la volontà di Dio vuol dire non fare nulla, vuol dire rimanere passivi, abbandonarci. Che cosa dice la Madonna? Quando l'angelo le annunzia che diverrà la madre di Dio, si faccia di me secondo la tua parola. Possiamo noi fare la volontà di Dio? O mi fare figli? Che orgoglio, che presunzione la nostra, pensare che non si possa fare la volontà di Dio. La volontà di Dio la potrà fare soltanto Dio, non vi sembra? Che cos'è la volontà di Dio se non Dio stesso? Vi è in Dio qualche cosa che non è Dio? Quello che in Dio è, non è Dio stesso. Vi potrebbe essere, nella semplicità assoluta dell'essere divino, qualche cosa che Dio ha e che non è Lui. Qualche cosa che è in Lui e non è Lui. Qualche cosa che Egli possiede e non è la sua stessa natura. Dio non è buono, ci dicono i teologi, Egli è la bontà. Dio non possiede la sapienza. Sarebbe bestemmia dire che Dio possiede la sapienza, quasi che la sapienza fosse qualcosa di distinto da Dio. Dio è la sapienza, è la sapienza. Dio è la sua volontà. La volontà di Dio è Dio stesso. Far la volontà di Dio, chi la può fare se non Dio solo? Noi siamo esseri così fragili, così poveri, così imperfetti, che non riusciamo a vivere sempre nemmeno la volontà umana. Vediamo quanti atti compirà la Laura in tutta una giornata, atti interni ed esterni, probabilmente più di qualche milione. Atti interni, pensate, immagini, pensieri, impressioni. Non siamo nemmeno noi consapevoli di tutti gli atti che compiamo. In un minuto quanti atti compio? Ma forse migliaia in un minuto. Pensate un pochino quanti atti io compio ogni qualvolta muovo una mano, per esempio, o penso una cosa. Movimento interno, atto esterno. Ora ditemi un po', di tutti questi milioni di atti che noi compiamo ogni giorno, quanti sono atti veramente umani, perché volontari, perché pienamente liberi, perché pienamente consapevoli, perché pienamente volontari, voluti da noi? Quanti sono questi atti? Pochissimi. Vedete, non si vive nemmeno come uomini. Non riusciamo a vivere nemmeno perfettamente come uomini, perché la maggior parte dei nostri atti sono atti così, che si compiono senza la partecipazione di una volontà determinata, senza la partecipazione di una consapevolezza piena, come in sogno, così, per un certo automatismo delle nostre potenze. Si agisce, io mica so quello che faccio quando parlo, i movimenti che compio, non li so, ormai parlando mi vengono abitualmente certi atti piuttosto di altri. Non so mica, mi determino mica ora a muovere il braccio in un certo senso, ora a muoverlo in un certo altro, altrimenti non penserei più a quello che voglio dire, non vi sembra? Ora, guardate bene, su questi milioni di atti sono pochi gli atti veramente umani. Gli atti in cui, insomma, l'uomo vive una sua volontà. Determina cioè il suo cammino, determina il suo atto, lo vuole, ne è pienamente responsabile. Sono pochi gli atti. Ditemi un poco, se l'uomo vive così poco da uomo, potrebbe mai vivere da Dio? Far la volontà dell'uomo è già assai difficile per noi, bisogna essere così desti nella nostra volontà, nella nostra intelligenza, così pienamente consapevoli, così fermi nel nostro volere, così svegli, insomma. No, per agire come uomini. Far la volontà di Dio vuol dire essere desti nella fede, essere poi non soltanto desti nella fede, ma animati da carità, dalla carità divina. Bisogna, cioè, che attraverso le virtù teologali noi siamo più mossi che muoverci, rimaniamo passivi di fronte alla grazia. Chiaro? La volontà di Dio non la compie una volontà umana, non si compie in vista della luce della ragione. La volontà di Dio ci è conosciuta soltanto attraverso la fede, la si può fare soltanto attraverso la carità. Ora, fede e carità sono virtù teologali, virtù che io ricevo da Dio, virtù che io non posseggo che in quanto le ricevo, virtù che io non esercito che in quanto sono passivo di fronte alla grazia. E allora fare la volontà di Dio per me che cosa vuol dire? Abbandonarmi all'azione divina, essere mosso da Lui. Non vi sembra? Bisogna, per me fare la volontà di Dio vuol dire vivere in ogni istante un mio abbandono pieno alla forza di una volontà estranea che mi muove, estranea no, perché è uno che amo, ma di una volontà comunque che non è la mia, che mi muove e mi dirige, mi porta al compimento di un atto che risponde a un suo disegno, non a un mio disegno. Fare la volontà di Dio vuol dire essere passivi, capite? Per questo, guardate, chi fa la volontà di Dio perfettamente? Il mistico, chiaro? Si dice che i mistici non fanno più nulla perché non sono che passivi, no? Quanto più noi entriamo nella vita mistica, tanto più siamo passivi di fronte all'azione di Dio. Ma allora dice non si fa più nulla. E ci sono stati perfino dei teologi, ma scusatemi, tanto lo dico fra parentesi, e fra di noi soltanto, capivano pochino però questi teologi, i quali dicevano che siccome erano passivi, l'anima era passiva, non meritava più. Cioè, come se la nostra attività suprema per noi uomini, creature di Dio, non sia precisamente nella nostra passività di fronte al Signore. È Lui il creatore che ci muove, è Lui soprattutto il santificatore che agisce in noi e opera la nostra santificazione. Ora, far la volontà di Dio per noi sarà possibile soltanto nella misura del nostro abbandono, nella misura che noi, cioè, saremo passivi di fronte alla grazia. Far la volontà di Dio vuol dire non fare, lasciare che Dio faccia. È quello che dice la Vergine. Fiat mi secundum verbum tu, si faccia di me secondo la tua parola. Lei non fa nulla, si faccia di me secondo la tua parola. Che cosa fa la Madonna? Non fa nulla, non fa, si abbandona, lascia che Dio operi attraverso di lei, toglie ogni impedimento all'azione divina in lei, in tal modo che il suo corpo e la sua anima divengono puro strumento della onnipotenza divina. In noi non siamo santi, lo sapete perché? Perché vogliamo fare a modo nostro. Perché non lasciamo agire Dio come Egli vuole, ma vorremmo noi dettar legge al Signore. Essere santi, ma a modo nostro. Essere santi, ma secondo un nostro proposito. Vorremmo che Dio si adattasse alla nostra volontà, non ci adattiamo noi alla sua. E invece, per noi, fare la volontà di Dio consiste precisamente nell'abbandonarci al Signore. E dicevo, guardate la sapienza della frase dell'Apostolo. Fare la volontà di Dio vuol dire avere pazienza. Ora, che cos'è la pazienza? È precisamente quel minimo di passività che Dio chiede a tutti i cristiani. Perché sono tante le tribolazioni della vita presente che non potremmo nemmeno scansarle, non potremmo allontanarle da noi. Noie, difficoltà, pesi, stanchezze, no, tribolazioni di ogni genere. Che cosa devi fare? Fare la volontà di Dio per te e accogliere il momento presente, così come Dio te lo manda. Pazienza, pazienza, pazior, che vuol dire soffrire, ma soffrire un'azione. È Dio che attraverso tutte le cose, tutti gli avvenimenti della tua vita, è Dio che ti impone una sua volontà, e far la sua volontà per te vuol dire accogliere questa volontà sua nell'accettazione piena, umile, non rassegnata, ma gioiosa di quanto gli ha disposto per te. Pazienza. Che bello! Pensate voi, ma sapete che il nostro Signore è straordinario. Ve ne accorgete ogni giorno di più. Dio ha avuto poca stima di noi, ha avuto poca fiducia in noi. Voleva farci santi e ci fa santi da sé. Ci chiede a noi soltanto di credere nel suo amore e di accogliere la sua azione. È lui che pensa a far tutto. Non cercare altra via. Non voler sfuggire ai tuoi pesi. Non voler tentare altro cammino. È in questo istante che vivi, in questa occasione, in quel tale rapporto, con queste tribolazioni e dolori, che Dio ti modella. Ed ecco perché il padre de Cossab poteva dire che vi sono 7 sacramenti, ma vi è un 8° sacramento che è quello che ci santifica più di tutti gli altri, ed è il sacramento del momento presente, così come tu lo vivi, così come Dio te lo manda, perché in ogni istante Dio opera in te. Attraverso tutti gli avvenimenti è Dio che ti impone una sua volontà, e sei tu nella sua divina presenza che devi accogliere questa volontà sua, che a questa volontà sua devi totalmente aderire, devi totalmente abbandonarti nell'umiltà, nell'amore, nella gioia. Vedete com'è facile? La cosa più facile di questo mondo. Il nostro Signore non va chiesto mica a voi la vita di San Francesco, o nemmeno la vita di San Giovanni della Croce, che andate a cercare. È qui ed è ora che tutti i tesori della sua sapienza divina e del suo amore infinito sono aperti per voi, se voi sapete consentire l'azione di Dio, se voi sapete accogliere questa sua azione, se voi sapete riconoscere in quello che avviene la sua mano e la sua volontà. Patientia vobis necessaria est, voluntatem Dei facientis reportetis promissione. È necessaria la pazienza per compiere la volontà di Dio. La volontà di Dio è dunque pazienza. Quante volte, non è vero? Anche voi vi siete domandati, ma quella sarà la volontà di Dio? Questo, quello, io non lo so mai questa volontà di Dio. Beh, ora la volontà di Dio è quella di ascoltare questo povero prete. Vedete che non è mica una cosa tanto difficile. Può essere noioso, ma in fondo, insomma, se per andare in paradiso ci vuole così poco, non mi sembra. Ebbene, ora voi non potete fare una cosa più santa di questa, di aprirvi nella fede. Però la cosa importante è questa, badate, che ogni avvenimento per voi non sia più un puro avvenimento umano, perché non dobbiamo essere mai passivi di fronte alle cose, siamo passivi soltanto di fronte a Dio. L'uomo, la creatura umana, non può essere passiva mai di fronte a nessuna creatura senza avvilirsi, perché l'uomo è stato creato come re del creato, non come servo degli elementi. E allora non possiamo mai essere passivi di fronte a nessuno. Dobbiamo essere passivi di fronte a Dio solo. Ora vi ho detto prima. Vedete, la volontà di Dio in questo momento per voi è quella di ascoltare questo povero prete. E voi lo ascoltate. Ma com'è che ascoltandolo una è più santa e l'altra è meno santa? Perché non si tratta di accogliere soltanto gli avvenimenti, ma di accoglierli come espressione di una divina volontà. Non passivi di fronte alle cose, nemmeno di fronte a me. Vedete, se io fossi un bravo predicatore che vi incanto, dovreste mettervi davvero il cotone negli orecchi. Mettetevelo, allora, se vi non noia così. Dovreste mettervi il cotone negli orecchi, perché allora voi sareste passivi di fronte all'oratoria, di fronte all'eloquenza. Buttatemi via. Fuori di finestra magari, tanto siete in tante, potete anche farlo. Se me vedete soltanto un uomo, se me volete ascoltare soltanto una parola umana, sia pure eloquente quanto volete, sia pure saggia quanto volete, sia pure profonda quanto volete, voi avete tutto il diritto e tutto il dovere di mantenervi critici, esigenti, cioè di non essere passivi. di non lasciarvi imbeverare. È soltanto nella misura che voi riconoscete nel momento presente, attraverso quel rapporto che si stabilisce fra la vostra anima e gli altri, riconoscete l'azione di Dio. Passivi di fronte al Signore. Vi parlo, è Lui che vi parla. E nella misura che attraverso questo povero avvenimento umano, che è la parola di un sacerdote, voi ascoltate la parola di Dio, voi entrate in comunione con Lui, voi vivete la pazienza vera, che è la pazienza cristiana, che esso è un soffrire, ma da parte di Dio, non da parte delle creature. Per questo, vedete, tante volte la pazienza a noi è tanto difficile. Perché? Perché si ribella tutto l'essere umano di fronte agli avvenimenti puramente umani, di fronte agli uomini. Ma insomma, io mi ribellerei anche di fronte al Papa, se io non sapessi riconoscere nel Papa Cristo. Quando, se il Papa mi umiliasse, anche minimamente, sono un uomo. Nessuno ha il diritto di umiliare un altro uomo. L'uomo è re, è al di sopra di tutte le creature. Nemmeno lo Stato è superiore alla persona umana. La persona umana è un assoluto, non dipende che da Dio. Ma vedete, il cristiano che è così anarchico, perché non conosce proprio nessuno al di sopra di sé, tranne Dio, poi però riconosce Dio in tutte le cose, sicché e si ritrova a posto lo stesso, no? Ma riconoscendo Dio nelle cose, la pazienza diviene facile. Non soltanto la pazienza diviene una virtù divina, esercizio di amore, diviene una virtù divina, diviene un far la volontà di Dio, ma diviene una cosa gioiosa. Oh, che bellezza! Se voi davvero non ascoltate più un povero uomo nella mia parola, ma ascoltate il Signore, che differenza c'è tra la vita vostra e la vita dei santi? Dei santi che hanno vissuto qua giù sulla terra, dei santi che ora vivono in cielo. È un sacramento, è la povera parola d'un uomo, ma voi attraverso questa povera parola entrate in comunione con Dio. È una pazienza facile questa comunione con Lui. Se voi nel dolore non vedete soltanto il dolore umano, questa umiliazione della vostra natura corporea soggetta alla malattia, soggetta all'infermità, non considerate più soltanto l'umiliazione della vostra anima soggetta all'oppressione da parte di un altro, alla umiliazione di fronte ai potenti, ma considerate invece il Signore. Voi vedrete soltanto il Signore. Allora la pazienza per voi non ha più nulla di mortificante, non è vero? Come potrebbe avere qualcosa di mortificante, qualcosa che dilata l'anima? Far la volontà di Dio per i santi è vivere la vita del cielo. O perché per noi qua giù sulla terra fare la volontà di Dio dovrebbe essere mortificazione e dolore? Il dolore stesso, noi, nella misura che sappiamo riconoscere attraverso gli avvenimenti divini, gli avvenimenti tutti della nostra vita, l'azione di Dio, tutti gli avvenimenti umani e anche il dolore umano si trasfigurano, divengono il sacramento di una continua nostra comunione con Dio.